Anna viene appuntamento, guarda il mare, guarda il fronte, se te parlo non rispondo, sei distratta come che io te tengo dentro cuore, sono sempre innamorata, ma tu invece pensi nato, ma te stai scordando me. Non sa te fa morire, non cuore amante. Torno da giusto sì, una sera mattina, e mo tieno coraggio. Io tuoi non so sincero, come quando mi incontrasti, come quando mi dicesti voglio bene solo a te, e tre mani mi giurasti, con una mano un doppio cuore. Non sei scordo prima amore, ma ti stai scordando me. Tu fa morire, no cuore amante. Tu mi deciste sì, una sera mattina, e mo tieno coraggio. Deciste sì, una sera mattina, e mo tieno